Dopo questo, sopra ogni carne, io effonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. I vostri vecchi avranno dei sogni. I vostri giovani vedranno visioni. Anche sopra gli schiavi e le schiave, in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre, la luna in sangue, quando verrà il giorno del Signore, grande e terribile. Allora chiunque invoca il nome del Signore sarà salvo, perché sul monte di Sion ci sarà la salvezza, come ha detto il Signore, e in Gerusalemme gli scampati, quelli che il Signore chiama.